ad alta voce. Sandra Toffolatti legge Il diario di Etty Hillesum. Traduzione di Chiara Passanti. 10 luglio 43. Maria, ciao. Già 10.000 sono partiti da questo luogo, vestiti e svestiti, vecchi e giovani, malati e sani. E io sono ancora in grado di vivere e lavorare e essere lieta. Ora anche i miei genitori dovranno partire. Se non questa settimana, per virtù di un qualche miracolo, certamente la prossima. E io devo imparare a accettare anche questo. Misha vuol partire con loro e mi sembra che debba farlo. Perderà la testa se li vedrà partire. Io non lo farò, non posso. È più facile pregare per qualcuno da lontano che vederlo soffrire da vicino. E dunque, anche questa è viltà. La gente non vuol riconoscere che a un certo punto non si può più fare, ma soltanto essere e accettare. Ho cominciato a accettare già da molto tempo, ma accettare si può solo per se stessi e non per gli altri. Ed è per questo che sto passando un momento terribilmente difficile qui. La mamma e Misha vogliono sempre fare ancora qualcosa e mettere il mondo sottosopra, e io sono del tutto impotente di fronte al loro atteggiamento. Io non posso fare nulla, non l'ho mai potuto. Io posso solo prendere le cose su di me e soffrire. In questo sta la mia forza, ed è una grande forza. Ma per me stessa, non per gli altri. Papà e mamma sono stati respinti a Barneveld. L'abbiamo saputo ieri. Devono tenersi pronti per partire col convoglio di martedì. Misha vuole andare dal comandante e dirgli che è un assassino. Dovremmo tenerlo d'occhio in questi giorni. Papà è apparentemente molto tranquillo, ma sarebbe stato distrutto in pochi giorni se fosse rimasto nella grande baracca e se non gli avessi trovato un posto all'ospedale, dove la vita sta pure diventando più o meno invivibile per lui. È completamente indifeso e non è in grado di cavarsela. Anche le mie preghiere non sono come dovrebbero. So bene che si deve pregare per gli altri, nel senso che trovino la forza di sopportare ogni cosa. Invece io dico sempre: Signore, fa che duri il meno possibile. E così sono paralizzata in tutte le mie azioni. Da un lato vorrei preparare i loro bagagli nel modo migliore. Dall'altro so che tanto glieli porteranno via, ne siamo sempre più sicuri. E dunque perché darsi ancora tutta questa pena? Qui a Westerbork ho un buon amico, il giornalista Philip Mechanicus. Avrebbero dovuto deportarlo la settimana scorsa. Quando sono andata da lui era diritto come una candela, il viso calmo, lo zaino pronto accanto al suo letto. Non abbiamo parlato della sua partenza. Mi ha letto diverse cose che aveva scritto e abbiamo ancora filosofato per un po'. Non ci siamo resi le cose difficili col nostro dolore per l'imminente distacco. Abbiamo riso e ci siamo detti che ci saremmo rivisti. Eravamo ambedue in grado di sopportare il nostro destino. Ed è proprio questa la cosa che fa disperare qui. La maggior parte delle persone non è in grado di sopportare il proprio destino e lo scarica sulle spalle altrui. E sotto quel peso, non sotto il proprio, si potrebbe anche soccombere. Io mi sento all'altezza del mio destino, ma non mi sento in grado di sopportare quello dei miei genitori. Questa è l'ultima lettera che posso scrivere per ora. Oggi pomeriggio dobbiamo consegnare i nostri documenti d'identità e diventiamo ufficialmente residenti nel campo, perciò dovrai avere un po' di pazienza con le mie notizie. Forse riuscirò a contrabbandare una lettera prima o poi. Le tue due lettere sono arrivate. Ciao, Maria, amichetta mia. Etty. Ma so bene che non posso parlare così a quelle giovani donne coi loro piccini, che probabilmente andranno diritto all'inferno su uno di quei nudi treni merci. E naturalmente mi risponderebbero: hai un bel dire tu che non hai figli. Ma questo non c'entra proprio per niente. C'è una frase della Bibbia che mi dà sempre forza. Credo sia all'incirca così: se tu mi ami, devi abbandonare i tuoi genitori. Ieri sera, mentre dovevo di nuovo lottare duramente per non essere paralizzata dalla compassione per i miei genitori, ho visto anche questo. Non bisogna lasciarsi consumare dal dolore e dalle preoccupazioni per la famiglia, al punto da non provare più interesse e amore per il prossimo. Sono sempre più convinta che l'amore per il prossimo, per qualsiasi creatura a somiglianza di Dio, debba stare più in alto dell'amore per i parenti. Non fraintendetemi, vi prego. Si dice che sia contro natura, e mi rendo conto che fatico ancora troppo a scrivere di queste cose, mentre sono così semplici nella vita. Stasera vado con Mechanicus a trovare Anne-Marie e il suo ospite di sempre, il capo delle baracche, che ha una cameretta tutta per sé. Ce ne staremo seduti in quella che per Westerbork è una grossa stanza con una bassa e grande finestra aperta, e dietro quella finestra la brughiera, così vasta e ondeggiante come il mare. L'anno scorso vi scrivevo sempre da quel posto. Anne-Marie ci farà certamente del caffè e il nostro ospite ci racconterà come si viveva una volta nel campo e già qui da 5 anni. E più tardi Philip ne ricaverà delle piccole storie. Io frugherò nei miei barattolini per vedere se trovo qualcosetta da mangiare con il caffè, e chissà, forse Anne-Marie avrà fatto di nuovo un budino. L'altra volta c'era quel tuo indimenticabile budino di mandorle, Yeti. Oggi ha fatto caldo. Sarà una bella sera estiva davanti a quella finestra aperta e a quella brughiera. Più tardi Philip e io andremo a cercare Yopi e, come un pacifico terzetto, passeggeremo intorno alla grande tenda beduina grigia che si innalza su un largo spiazzo sabbioso. Una volta quella tenda serviva per la disinfestazione dai pidocchi. Ora ospita suppellettili rubate alle case degli ebrei, che finiranno come offerte in Germania o andranno a arricchire la casa del comandante. Dietro quella tenda il sole dà spettacolo ogni sera con un tramonto diverso. Quanti paesaggi ospita questo campo nella brughiera del Drente. Credo che il mondo sia bello dappertutto, anche nei luoghi che nei libretti di geografia sono descritti come desolati e aridi e monotoni. Del resto, la maggior parte dei libri non vale nulla e dovremmo riscriverli. La mia lettera quindicinale l'ho scritta a Tide, ma mi è stato permesso di scriverla da una parte sola del foglio. Cari miei, come avete fatto a procurarvi quella mezza libra di burro? Era una cosa principesca, mi sono spaventata, tanto era enorme. Perdonatemi questa fine materialista. Ora sono 6:30 e devo andare a prendere la piccola razione di cibo per la famiglia. Vi saluto tutti con molto, molto affetto. Etty. Agosto 1943. In futuro, quando la mia casa non sarà più un giaciglio di ferro in un luogo circondato dal filo spinato, voglio avere una lampadina sopra il mio letto, così di notte ci sarà luce ogni volta che lo vorrò. Spesso nel mio dormiveglia turbinano pensieri e piccoli racconti, vuoti e trasparenti come bolle di sapone. Vorrei poterli catturare su un pezzo di carta. Quando mi sveglio alla mattina mi sento come dentro un bozzolo. È un ricco risveglio, sai. Ma poi comincia a volte una piccola passione. Pensieri e immagini si agitano intorno a me, sono così tangibili e vogliono essere messi sulla carta. Ma non c'è nessun posto in cui si possa star seduti con calma. Certe volte passo delle ore a cercarlo. Una volta, nel cuore della notte, una gatta randagia è entrata nella nostra baracca. Le abbiamo messo una cappelliera sul gabinetto e là ha avuto i suoi piccoli. Certe volte mi sento come un gatto randagio, senza cappelliera. Stanotte è nato il figlio di Yopi. Si chiama Benjamin e dorme nel cassetto di un armadio. Vicino a mio padre hanno messo un malato di mente. Sai, se qui tu non hai una grande forza interiore, se non guardi alle apparenze come a pittoreschi accessori che non intaccano il grande splendore, non mi viene in mente un'altra parola, che può essere una parte inalienabile della tua anima, allora è proprio una situazione disperata. È così, così triste vedere tutte quelle persone abbandonate a se stesse, che perdono il loro ultimo asciugamano, che si arrabattano con scatoline, scodelle di cibo, bicchieri, pane muffito e biancheria sporca sopra, sotto e di fianco alle loro cuccette, che sono infelici perché altre persone sono spesso sgarbate, urlano con loro, ma che a loro volta urlano con gli altri e non se ne rendono conto, bambinetti lasciati soli dai genitori deportati e trascurati dalle madri degli altri bambini. Già sono in pena per i propri pulcini che hanno la diarrea e ogni sorta di malattie grandi e piccole, mentre prima erano sempre stati bene. Dovresti vedere la disperazione apatica e folle di quelle povere madri sedute accanto al giaciglio dei loro figlioletti che piangono e che non vogliono crescere. Ho messo insieme questa paginetta in 10 posti diversi, dietro il tavolino del telegrafo nella baracca dove noi lavoriamo, su una carriola vicino a dove lavora Anne-Marie, al caldo per ore in mezzo a ragazzini del popolo che urlano senza riguardo e che in questo momento lei non sopporta più. Ieri le ho asciugato non poche lacrime, ma non farle capire che ve l'ho scritto. Questi scarabocchi per te sono anche per Sweep. Poi, durante la conferenza di un professore di sociologia piuttosto logorroico. Poi, stamattina, su un pezzettino di duna ventosa sotto il cielo. Ogni volta ci aggiungo una parola. E ora mi trovo nella sala mensa a tramezzi di cartone dell'ospedale. L'ho scoperta poco fa. Forse potrò ritirarmi qui di tanto in tanto. Domattina Yopi va a Amsterdam. Per la prima volta in questi mesi provo una stretta al cuore ben disciplinato, perché la barriera rimane sempre ancora chiusa per me. Ma a ognuno il suo momento. Quasi tutte le persone che sono qui sono molto più povere del necessario, perché registrano la loro nostalgia degli amici e della famiglia come una perdita nel libro dei conti della vita, mentre il fatto stesso che un cuore sia in grado di desiderare e di amare così tanto dovrebbe essere contato fra i beni più preziosi. Santo Dio, credevo di aver trovato un posticino tranquillo ed ecco che si sta riempiendo di gente col camice che porta dentro sbatacchianti pentoloni di vari cibi mescolati insieme e personale dell'ospedale che si siede ai tavoli di legno per mangiare. È solo mezzogiorno. Andrò a cercarmi un altro posticino. Un piccolo tentativo filosofico a sera inoltrata, con gli occhi che mi si chiudono per il sonno. Certe volte si sente dire: tu volgi proprio tutto in bene. Trovo che è un'espressione così priva di coraggio. Le cose sono dappertutto completamente buone e al tempo stesso completamente cattive. Così si bilanciano dappertutto e sempre. Io non ho mai la sensazione che devo volgere qualcosa in bene. Tutto è sempre e completamente un bene così com'è. Ogni situazione, per quanto penosa, è qualcosa di assoluto e contiene in sé il bene come il male. Volevo solo dire questo. L'espressione volgere qualcosa in bene, in fondo, mi disgusta. E così pure l'espressione tirare fuori il meglio da ogni situazione. Mi piacerebbe poterti spiegare bene perché. Se tu sapessi che sonno ho, potrei proprio dormire per 2 settimane di fila. Ora porterò questa lettera a Yopi. Domattina lo accompagnerò al piccolo edificio della gendarmeria, poi lui andrà a Amsterdam e io tornerò fra le baracche. Vi saluto, miei cari, Etty. Westerbork, 18 agosto. Tideke, questa volta non volevo quasi scrivere perché mi sentivo terribilmente stanca e perché credevo di non aver niente da dire. Ma certo che ho molto da dire. Però preferisco che i miei pensieri fluiscano liberamente verso di voi, tanto so che li captate. Oggi pomeriggio, mentre riposavo nella mia cuccetta, mi è venuto da scrivere queste cose nel mio diario. Ora le mando a te. Mi hai resa così ricca, mio Dio. Lasciami anche dispensare agli altri a piene mani. La mia vita è diventata un colloquio ininterrotto con te, mio Dio. Un unico grande colloquio. A volte, quando me ne sto in un angolino del campo, i miei piedi piantati sulla tua terra, i miei occhi rivolti al cielo, le lacrime mi scorrono sulla faccia, lacrime che sgorgano da una profonda emozione e riconoscenza. Anche di sera, quando sono coricata nel mio letto e riposo in te, mio Dio, lacrime di riconoscenza mi scorrono sulla faccia e questa è la mia preghiera. Sono molto, molto stanca, già da diversi giorni, ma anche questo passerà. Tutto avviene secondo un ritmo più profondo che si dovrebbe insegnare ad ascoltare. È la cosa più importante che si può imparare in questa vita. Io non combatto contro di te, mio Dio. Tutta la mia vita è un grande colloquio con te. Forse non diventerò mai una grande artista come in fondo vorrei, ma mi sento già fin troppo al sicuro in te, mio Dio. A volte vorrei incidere delle piccole massime e storie appassionate, ma mi ritrovo prontamente con una parola sola, Dio. E questa parola contiene tutto e allora non ho più bisogno di dire quelle altre cose. E la mia forza creativa si traduce in colloqui interiori con te e le ondate del mio cuore sono diventate qui più lunghe, mosse e insieme tranquille. E mi sembra che la mia ricchezza interiore cresca ancora. Da qualche tempo Yule si libra nel cielo di questa brughiera. È una cosa inesplicabile. È un nutrimento quotidiano. Accadono proprio dei miracoli in una vita umana. La mia è una catena di miracoli interiori. Fa bene poterlo di nuovo dire a qualcuno. La tua fotografia si trova nello Stundenbuch di Rilke, insieme a quella di Yule. Tutte e due stanno sotto il mio guanciale, insieme con la mia piccola Bibbia. Anche la tua lettera con le citazioni è arrivata. Sì, scrivi ancora. Sta bene, cara. Etty. Domenica mattina, 21/8/1943. Nel reparto maternità c'è un bebè di 9 mesi, una piccola bambina. Qualcosa di molto bello e dolce e con gli occhi celesti. È arrivata qui diversi mesi fa, come Esfal, caso penale. La polizia l'aveva scovata in una clinica. Nessuno sa chi o dove siano i suoi genitori. Per ora la tengono nel reparto maternità. Le infermiere si sono affezionate a quel giocattolino. Ma volevo dir questo. Nei primi tempi quella neonata non poteva essere portata fuori. Tutti gli altri bebè stavano all'aria aperta, nelle loro carrozzelle, ma lei doveva rimanere dentro. Era pur sempre una Esfal. L'ho chiesto a 3 infermiere diverse. Qui io vado sempre a sbattere contro dei fatti che mi paiono inverosimili, ma che ogni volta mi vengono confermati. Nella mia baracca ospedale ho incontrato una ragazzina gracile e denutrita di 12 anni. Nello stesso modo simpatico e ingenuo in cui un altro bambino ti racconta delle tabelline che impara a scuola, mi ha detto: «Sì, io vengo dalla baracca di punizione. Io sono un caso penale». Un bimbetto di 3 anni e mezzo aveva rotto un vetro con un bastone e quando suo padre gli aveva fatto una terribile sfuriata, era scoppiato in un pianto dirotto e aveva detto: «Oh, adesso mi mettono nella 51, la prigione, e devo partire da solo sul treno dei prigionieri». È sconcertante come i bambini parlano tra loro. Ho sentito un ragazzino dire a un altro: «No, sai, il marchio da 120.000 non è proprio il migliore, ma se tu sei per metà ariano e per metà portoghese, allora sì che va bene. Anne-Marie ha sentito una madre dire al suo bambino nella brughiera: «E se adesso non finisci da bravo il tuo budino, partirai senza la mamma». Stamattina la donna che ha la cuccetta sopra quella della mamma ha fatto cadere una bottiglia d'acqua e le ha inondato il letto. Una cosa del genere diventa qui una calamità naturale, di cui vi potete difficilmente immaginare la portata. Fuori di qui la si potrebbe paragonare a una casa devastata da una inondazione. Comincio ad amare questa mensa d'ospedale. È proprio come una capanna di tronchi indiana. Una bassa baracca di legno grezzo, tavoli e panche idem, piccole finestre che sbattono e per il resto niente. Fuori si vede un'arida striscia di sabbia con erba incolta, limitata da una specie di diga sabbiosa tirata su dal canale. Davanti a questa diga serpeggia un binario abbandonato. Durante la settimana uomini seminudi e abbronzati vi si divertono su dei vagoncini. Di qui non si vede la brughiera, che invece si vede da ogni altro angolo di questo paesino sperduto. Dietro il filo spinato c'è una pianura ondulata di bassi arbusti, sembrano piccoli abeti. Questo tratto di paesaggio spietatamente arido, la rozza capanna di tronchi, i mucchi di sabbia, il piccolo canale maleodorante, fa un po' pensare a un terreno da cercatori d'oro, al Klondike. Di fronte a me, seduto al rozzo tavolo di legno, Mechanicus mordicchia la sua penna stilografica. Di tanto in tanto alziamo lo sguardo dai nostri foglietti scarabocchiati e ci guardiamo in faccia. Lui registra fedelmente, con una precisione quasi burocratica, tutto quel che capita qui. «È troppo», dice a un tratto. «Io so scrivere un pochino, ma qui mi trovo davanti a un abisso o davanti a una montagna. È troppo». Comincia a venire gente e borghesi con logori abiti confezionati e marchiati si siedono a mangiare cavoli rapa da scodelle smaltate. Lettera di Jopi Vleeschhouwer, 6-7 settembre 1943. Cari signor Wegerif, Hans, Maria, Tide e tutti voi che conosco un po' meno bene, non sarà facile darvi queste notizie. È successo così improvvisamente e così inaspettatamente. Strano che sia stata ancora una sorpresa dal momento che eravamo tutti pronti da tempo. E così è stato. Lei era pronta e, ahimè, è anche partita. Dall'Aia si era saputo solo nella tarda giornata di lunedì che la richiesta d'esonero di Miscia era stata respinta e che anche lui sarebbe dovuto partire con il convoglio del 7 settembre insieme con la sua famiglia. Perché? Già, questo non si sa quasi mai. In un primo tempo avevamo sperato e creduto che le cose sarebbero andate per un altro verso e che l'ordine di partenza avrebbe potuto essere comunque revocato per Etti. E poi, proprio oggi, avevamo ottenuto che gli ex impiegati al Consiglio ebraico, 60 persone in tutto, non sarebbero dovuti partire per il momento. Ben presto si era visto che per Miscia e per i genitori c'era poco da fare, mentre tutte le possibilità rimanevano aperte per Etti. Così ci siamo innanzitutto preoccupati di preparare velocemente i bagagli di 3 persone. Sì, l'avevano presa bene. Si sapeva già da tanto tempo che prima o poi questo doveva succedere e la settimana prossima tutti i genitori di quelli che hanno il marchio rosso sarebbero comunque dovuti partire, senza eccezioni. Miscia aveva già deciso di partire coi suoi genitori e per loro era pronto a sacrificare tutti i suoi privilegi personali. Ora tutto questo succedeva con una settimana di anticipo, un po' bruscamente, è vero, ma in fondo si trattava solo di una differenza di tempo. Ma Peretti era un colpo, dal momento che non voleva viaggiare coi suoi genitori e che preferiva abbandonarsi a questa nuova esperienza libera dal peso di legami familiari. Per lei è stato come un colpo in testa, che per un momento l'ha messa letteralmente a terra. Un'ora dopo, però, si era già ripresa e si era adattata con ammirevole rapidità alla nuova situazione. Ci siamo recati insieme alla baracca numero 62 e per ore abbiamo scelto, impaccato, tirato fuori e ripartito ogni sorta di abiti e di viveri. Il padre di Etty tradiva il proprio nervosismo con battute umoristiche, che ogni volta mandavano in bestia Miscia perché trovava che non prendeva le cose abbastanza sul serio. Miscia non riusciva a capire perché il rinvio, che pareva sicuro, fosse stato improvvisamente annullato e voleva mandarmi in continuazione da conoscenze più o meno importanti. Non capiva che un ordine della House non può essere contraddetto qui e che in casi di questo genere è inutile darsi da fare. Però era tranquillo e prendeva le cose in modo ragionevole. Certo che gli pesava parecchio dover lasciare qui tutta la sua musica. Sono riuscito ancora a infilare 4 spartiti arrotolati nel suo zaino. Il resto, anche il pacco di provviste che è appena arrivato, riempie ora una valigia che sarà rispedita a Amsterdam alla prima occasione. Mamma A, attiva come sempre, badava a ogni cosa e mostrava una calma ammirevole. Spesso, nelle notti in cui doveva partire un convoglio, tutta la famiglia era rimasta sveglia per il trambusto che quei preparativi creano in una grande baracca. Questa volta, invece, dormivano pacificamente quando alle 3 Etty e io siamo passati a vedere se si poteva continuare a preparare i bagagli. Così siamo tornati a informarci sulle possibilità di un rinvio per Etty e solo allora, con nostro grande stupore, abbiamo capito che queste possibilità erano minime. Nel frattempo, intanto che Etty si occupava dei suoi genitori e di suo fratello, le amiche della sua baracca le avevano fatto i bagagli alla perfezione, fin nei minimi dettagli. Dopo che la direzione del consiglio ebraico aveva dichiarato che non si poteva far niente per Etty, abbiamo ancora provato a scrivere al primo ufficiale di servizio chiedendogli di intervenire. Forse, dunque, si potrà ottenere qualcosa al treno. Ma allora tutto deve essere pronto per la partenza e i suoi genitori e Miscia si sono avviati al treno per primi. Poi ho portato al treno su una carriola uno zaino ricolmo e un cestino da viaggio a cui erano appesi una scodella e un bicchiere. Ed ecco Etty sulla banchina che aveva descritto nel suo modo indimenticabile solo 14 giorni fa, parlando allegramente, ridendo, una parola gentile per tutti quelli che incontrava, piena di umorismo scintillante, anche se forse un pochino malinconico, proprio la nostra Etty, come tutti voi la conoscete. Ho con me i miei diari, la mia piccola Bibbia, la mia grammatica russa e Tolstoi e non so quante altre cose. Uno dei nostri capi è andato ancora un momento a salutarla e a dirle di avere fatto il possibile, ma tutto era stato inutile. Etty lo ha ringraziato di aver fatto comunque tutto il possibile e mi ha pregato di raccontarvi ogni cosa e che lei e i suoi erano partiti così bene. Ed eccomi qua, certo un po' triste per qualcosa che si è perduto, eppure no, perché un'amicizia come la sua non è mai perduta, c'è. E rimane. È quanto ho scritto su un pezzetto di carta che le ho messo in mano all'ultimo momento. L'ho persa di vista e ho girato per un po' nelle vicinanze. Ho cercato di trovare ancora qualcuno che potesse intervenire. È stato tutto inutile. Vedo la mamma, papà H e Miscia salire nel vagone numero 1 e ti finisce nel vagone numero 12. Dopo essere passata a salutare una sua buona conoscenza nel vagone numero 14 che all'ultimo momento viene fatta scendere. Il treno parte, un fischio acuto e i 1000 abilitati alla deportazione si mettono in moto. Ancora una visione fuggevole di Miscia che saluta con la mano da una fessura del vagone merci numero 1, poi un allegro «Ciao!» di Etty dal vagone numero 12 e sono partiti. È partita. Ci sentiamo derubati, ma non restiamo a mani vuote e ci rivedremo presto. È stato un giorno pesante per tutti, per Koyman, per Mech e per tutti quelli che a lungo erano stati in stretto contatto con lei. La vicinanza fisica di una persona è ben diversa dalla sua prossimità spirituale. Si sente un vuoto all'inizio, ma si va avanti. Mentre scrivo queste cose, tutto va avanti e anche lei va avanti, sempre più avanti, verso l'est dove aveva tanto desiderato di viaggiare. E credo che fosse anche un po' contenta di fare questa esperienza, di dover vivere pienamente il destino che ci ha riservato. E la rivedremo. Su questo punto tutti noi, i suoi amici più stretti a Westerbork, siamo d'accordo. Dopo la sua partenza ho ancora parlato con la sua piccola russa e con diversi altri suoi protégé. E il loro stato d'animo diceva più che abbastanza sull'amore fedele e leale che Etty ha dato a queste persone. Perdonatemi questo povero resoconto. Voi, che siete stati così viziati da racconti migliori e tanto ben scritti. So che diversi interrogativi rimarranno aperti e soprattutto questo si poteva evitare, ma posso escluderlo. Evidentemente doveva andare così. Cercherò di mandarvi alcuni libri di Etty non appena se ne presenterà l'occasione. Vorrei anche spedire la sua macchina da scrivere a Maria. Etty me l'aveva detto proprio questa settimana, ma non so se sarà possibile. Di tanto in tanto vi manderò notizie. Accludo un paio di lettere che sono arrivate per Etty e che sono state aperte dalla censura. Rispeditele per favore al mittente. Fatevi coraggio. Ritorneremo tutti un giorno. Persone come Etty sanno cavarsela nelle situazioni più difficili. Vi penso molto. Jopi Fleischhauer.